sulle crisi di governo, sulle crisi di un rapporto che non porta dove puoi andare. Puoi ridarmi il cuore per favore, puoi ridarmi il cuore per favore, ho detto per favore. Lascia i documenti in qualche giacca impolverata di un armadio, mettiti a sedere. Fuori da percorsi, fuori strada e fuori, dov'è il diritto di sbagliare, dove la curiosità è una sveglia, è una caravella, è tutto quello che hai da fare. Puoi passarmi il vino per favore, puoi passarmi il vino per favore, ho detto per favore. Voglio ricordarti adesso, voglio ricordarti come adesso, senza niente addosso. Siamo in comune, non sono nient'altro che un volo pindarico. Tutte le cose che noi siamo insieme non sono nient'altro. Fuori dal tuo dito medio, fuori mano, fuori dal comune, da ogni considerazione, fuori dove se ti va mi puoi trovare. Fuori dal mio cuore per favore, fuori dal mio cuore, puoi passarmi il vino per favore. Voglio ricordarti adesso, voglio ricordarti come adesso, senza niente addosso. Le cose che noi siamo insieme.